Capitolo centesimo. Teseo e le Amazzoni. Taluni dicono che Teseo partecipò alla spedizione di Eracle contro le Amazzoni e gli spettò come parte del bottino la regina Antiope, detta anche Melanippa. La sorte di questa regina non fu così triste come molti supponevano, poiché essa tradì la città di Temiscira sul fiume Termodonte, consegnandola a Teseo, come prova di un amore che già essa nutriva segretamente per lui. Altri dicono che Teseo si recò al paese delle Amazzoni molti anni dopo, in compagnia di Pirito e di altri amici, e che le Amazzoni, rallegrate dall'arrivo di così ai tanti guerrieri, non si opposero a essi con la violenza. Antiope, anzi, volle offrire dei doni a Teseo, ma non appena ebbe messo piede sulla nave, egli ordinò di salpare l'ancora e rapì la regina. Altri ancora dicono che Teseo soggiornò per qualche tempo in Amazzonia e accolse Antiope come sua ospite. Aggiungono che tra i compagni di Teseo vi erano tre fratelli ateniesi, Euneo, Toante e Soloone. Quest'ultimo si innamorò di Antiope, ma, non osando dichiararsi, pregò Euneo di dar voce alle sue speranze. Antiope respinse le proposte del giovane, pur continuando a trattarlo con cortesia, e soltanto quando Soloone si annegò nel fiume Termodonte, Teseo si rese conto di ciò che stava accadendo e ne rimase angosciato. Rammentando un avvertimento dell'oracolo delfico, e cioè che se mai egli si fosse trovato molto afflitto in un paese straniero, avrebbe subito dovuto fondare una città affidandone il governo ai suoi compagni, edificò Pitopoli in onore di Apollo Pizio e chiamò Soloone il fiume che scorreva nei pressi. Colà egli lasciò Euneo, Toante e un certo Ermo, nobile ateniese, la cui vecchia residenza in Pitopoli è ora erroneamente chiamata Casa di Ermete, poi ripartì con Antiope. La sorella di Antiope, Orizia, confusa da taluni con quell'Ippolita cui Eracle sottrasse la cintura, giurò di vendicarsi di Teseo. Essa strinse un patto d'alleanza con gli sciti, guidò un forte esercito di Amazzoni sulla superficie gelata del Bosforo Cimmerio, attraversò il Danubio e passò in Tracia, in Tessaglia e in Beozia. Giunta ad Atene, si accampò sull'Areopago e sacrificò ad Ares. Questo episodio, secondo taluni, avrebbe dato il nome alla collina. Orizia ordinò poi un distaccamento di invadere la Laconia, per scoraggiare ogni tentativo dei peloponnesiaci di portare i rinforzi a Teseo attraverso l'istmo. Le forze ateniesi erano già riunite, ma nell'una né nell'altra parte osava dare inizio alle ostilità. Infine, per consiglio di un oracolo, Teseo sacrificò a Fobo, figlio di Ares, e attaccò battaglia il settimo giorno del mese di Boedromione, il giorno cioè in cui ora si celebrano le Boedromie ad Atene, benché taluni dicano che a quel tempo già si celebrasse tale festa in ricordo della vittoria ottenuta da Suto su Eumolpo durante il regno di Eretteo. Le truppe delle Amazzoni erano schierate tra l'attuale tomba delle Amazzoni e la collina Pnice presso Crisa. L'ala destra di Teseo mosse dal museo e piombò sull'ala sinistra avversaria, ma fu messa in rotta e costretta a ritirarsi fino al Tempio delle Furie. Questo episodio è ricordato da una pietra eretta dal comandante locale Calcodonte in una strada lastricata dalle tombe dei caduti e intitolata appunto a Calcodonte. L'ala sinistra dello schieramento ateniese invece sferrò l'assalto dal Palladio, dal Monte Ardetto e dal Liceo e respinse le Amazzoni nei loro accampamenti, infliggendo loro gravi perdite. Taluni dicono che le Amazzoni chiesero la pace soltanto dopo 4 mesi di asprissima lotta. L'armistizio, concluso con giuramento presso il Tempio di Teseo, è ancora commemorato col cosiddetto sacrificio amazzonico nella ricorrenza della festa di Teseo. Ma altri dicono che Antiope, ormai moglie di Teseo, si batté eroicamente al suo fianco finché fu uccisa da un dardo di Molpadia, che Orizia con poche compagne fuggì a Megara dove morì di dolore e che le Amazzoni superstiti, respinte dall'Attica, si stabilirono in Scizia. Quella, a ogni modo, fu la prima volta che gli ateniesi respinsero invasori stranieri. Talune delle Amazzoni, rimaste ferite sul campo, furono mandate in Calcide per esservi curate. Antiope e Molpadia vennero sepolte presso il Tempio della Madre Terra e un pilastro di terra battuta indica la tomba di Antiope. Altre giacciono nella tomba delle Amazzoni. Le Amazzoni, che caddero mentre percorrevano la Tessaglia, riposano tra Scotussea e Cinocefale, altre ancora a Cheronea, presso il fiume Emone. Nella regione pirrica della Laconia, un santuario indica il luogo dove le Amazzoni si fermarono nel corso della loro avanzata per consacrare due simulacri lignei ad Artemide e ad Apollo. E a Trezene, un tempio di Ares ricorda la vittoria di Teseo sul distaccamento che tentava di aprirsi sull'istmo la via del ritorno. Secondo un'altra versione, le Amazzoni entrarono in Tracia attraverso la Frigia e non attraverso la Scizia e fondarono il santuario di Artemide Efesia mentre marciavano lungo la costa. Secondo una terza versione, esse si erano già rifugiate in quel santuario in due precedenti occasioni, mentre fuggivano all'ira di Dioniso e dopo la vittoria di Eracle sulla regina Ippolita, e i veri fondatori del tempio sarebbero Creso ed Efeso. In verità pare che Antiope sopravvisse alla guerra e Teseo fu costretto a ucciderla, così come l'oracolo di Delfi aveva predetto, quando si alleò con re Deucalione di Creta e ne sposò la sorella Fedra. La gelosa Antiope, che non era la moglie legittima di Teseo, interruppe il banchetto nuziale irrompendo nella sala in assetto di guerra e minacciando di massacrare gli invitati. Teseo e i suoi compagni chiusero in gran fretta le porte e uccisero Antiope, benché essa avesse generato a Teseo Ippolito, detto anche Demofoonte, né mai si fosse giaciuta con altro uomo. Amazzone, che si fa derivare di solito da A e Mazon, senza seno, perché si credeva che tali donne guerriere si amputassero una mammella per tirar meglio l'arco, ma ciò è frutto di pura fantasia, pare fosse una parola armena che significava donna luna. Poiché le sacerdotesse della luna sulle rive sudorientali del Mar Nero portavano armi, come pure le sacerdotesse del Golfo delle Sirti Libiche, può darsi che i racconti dei viaggiatori a proposito di queste sacerdotesse abbiano favorito una errata interpretazione di certe antiche raffigurazioni iconografiche ateniesi, dove si vedevano donne guerriere. Si diffuse così in Attica la favola dell'invasione delle Amazzoni giunte dal fiume Termodonte. Codeste raffigurazioni, che nell'epoca classica si trovavano sul piedistallo del trono di Zeus a Olimpia, ad Atene sulla parete centrale del colonnato dipinto, sullo scudo di Atena nel tempio di Teseo e altrove, rappresentavano la lotta tra le sacerdotesse preelleniche di Atena, che si disputavano il titolo di grande sacerdotessa, oppure un'invasione dell'Attica e la resistenza armata delle sacerdotesse stesse. È probabile che vi fossero collegi di sacerdotesse armate anche a Efeso, una colonia minoica, come indica il nome del fondatore Creso, che significa cretese, e in tutte le città dove si mostravano tombe delle Amazzoni. Orizia o Ippolita avrebbe prolungato la sua marcia per alcune centinaia di miglia attraversando la Scizia. Probabilmente la leggenda ebbe origine dal fatto che il Bosforo Cimmerio, ossia la Crimea, era la sede del barbaro culto taurico di Artemide, ove le sacerdotesse sacrificavano uomini come vittime. La leggenda di Antiope che irrompe nella sala del banchetto alle nozze di Fedra fu forse dedotta da una scena raffigurante un conquistatore ellenico nell'atto di violentare la grande sacerdotessa dopo aver ucciso le sue compagne. Antiope non era la moglie legittima di Teseo, perché apparteneva a una società che si opponeva alla monogamia. I nomi di Melanippa e di Ippolita associano le Amazzoni al culto preellenico del cavallo. Il nome di Solone, peso a forma di uovo, deriva forse da una gara di lancio del peso che si svolgeva nei giochi funebri celebrati presso la colonia greca di Pitopoli, così chiamata in ricordo del serpente oracolare del suo eroico fondatore. Pare che in quella colonia vi fosse l'usanza di gettare vittime umane nel fiume Termodonte. Le boedromie, correre in cerca d'aiuto, erano una festa in onore di Artemide, della quale sappiamo pochissimo. Forse vi partecipavano sacerdotesse armate, come nelle feste argive ibristiche.